presto, presto, pria che venga, formi vo da qualche lato. C'è una nicchia, mi c'è là, cheto, cheto, vivo sta. Senti, senti, dove vai? Ah, non ti ascolta, rosetto, se ti trova, poveretto. Tu non sai quel che può far, poveretto, tu non sai quel che può far. Faccia dica quel che vuole. Ma non giova le parole. Parla forte, affitta, resta. Thank you.